l'irruzione del Covid e le pesanti conseguenze che ne sono derivate abbiano letteralmente sconvolto, tra le molte cose, anche il quadro migratorio mondiale, europeo e italiano. I blocchi della mobilità internazionale, la chiusura di uffici e sportelli in presenza, i lockdown, i distanziamenti sociali, la riduzione di servizi anche essenziali, la sospensione di tantissime attività economiche, poi a cascata, quindi il ricorso massivo a prestazioni online che hanno emarginato, addirittura isolato la popolazione meno abbiente, più vulnerabile, ma poi ancora la venuta meno della manodopera immigrata in settori vitali per le economie nazionali anche in Europa, il crollo dell'occupazione, l'aumento dell'inattività e del lavoro nero, l'allentamento delle reti sociali, la caduta nell'irregolarità da parte di molti immigrati con il collegato rischio, lo sappiamo, di espulsione di sfruttamento. Ecco, tutti questi effetti della pandemia globale hanno pesantemente colpito, lo sappiamo, anche le aree più ricche del pianeta, Europa e Italia comprese. Nel caso dell'Italia, poi, con tutta una serie di primati statistici registrati nell'anno del Covid, noi nel 2020 abbiamo avuto il numero più basso delle nascite annuali pensate dall'Unità d'Italia, da 150 anni, ma anche un aumento dei morti fino ai livelli del dopoguerra, ha detto l'Istat, non solo la più consistente diminuzione della popolazione straniera da almeno 22 anni, il drastico calo del numero dei lavoratori, anche e soprattutto immigrati, la discesa del tasso di occupazione straniero al di sotto di quello italiano, anche questo dopo tanti anni che non si vedeva, e poi la crescita di ben 1 milione in un solo anno dei poveri assoluti, e di questi 1,5 milioni, lo voglio ricordare, è proprio costituito da stranieri, eccetera, eccetera. Quindi sono dati impressionanti, ma che non stupiscono se si pensa che nel nostro paese la crisi pandemica si è innestata sugli strascichi non ancora smaltiti della crisi del 2008, e così ha esercitato una specie di effetto miccia, un effetto deflagrante sulla vita di moltissime persone che già si trovavano strutturalmente in condizioni di emarginazione sociale, di fragilità economica e poi soprattutto nel caso dei migranti anche di vera e propria segregazione lavorativa. E noi sappiamo infatti come già da decenni i lavoratori stranieri vengano convogliati in massa e tenuti schiacciati con una scarsissima mobilità occupazionale e sociale ai margini del mercato del lavoro, su quelle professioni che altri studiosi hanno detto essere le più precarie, le meno pagate, le più pesanti e anche le più rischiose per la salute. E spesso proprio per questo, lo sappiamo, più esposte al lavoro nero e allo sfruttamento anche grave. Il caporalato, che già si era sdoppiato, per così dire, nella sua versione digitale, nei software di gestione del personale, e che si era già esteso dall'agricoltura a tanti altri comparti di attività, con la pandemia peraltro addirittura alle consegne a domicilio, ecco, il caporalato, dicevo, ha raggiunto, con la restrizione della manodopera disponibile e lo scivolamento di molti stranieri nell'irregolarità, forme di neoschiavismo tra le più brutali, di cui fanno le spese soprattutto i lavoratori immigrati, e vorrei sottolineare tra di loro in particolare le donne, sempre più sfruttate, sempre più ricattate, spesso anche abusate sessualmente. E tuttavia, nonostante la crisi abbia inferto appunto un duro colpo anche ai paesi più benestanti, le disuguaglianze economiche tra nord e sud del mondo si sono dilatate ulteriormente. In tutto il pianeta le persone in povertà assoluta, cioè quelle che non hanno neppure $1.90 al giorno per vivere, sono aumentate nel solo anno della pandemia di circa 120 milioni, sfiorando 1 miliardo di individui. È un abitante sulla Terra ogni 8, e concentrandosi, lo sappiamo ancora una volta, nelle due aree che sono storicamente quelle più povere del pianeta, il subcontinente indiano e l'Africa subsahariana, soprattutto orientale. Nel frattempo che è successo? È successo che quella che era già una consapevolezza forse tacita ma comunque diffusa e che non avremmo mai voluto sentire confermata è stata certificata scientificamente. I cambiamenti climatici e il surriscaldamento globale hanno superato la soglia di non ritorno e i nuovi migranti ambientali nel 2020 sono cresciuti fino a 31 milioni, 5 milioni in più rispetto all'anno l'anno precedente. Quindi con il Covid, insomma, i fattori di espulsione connessi alla povertà dei paesi d'origine si sono aggravati, si sono estesi, e nel frattempo altri problemi connessi ai molti conflitti in atto, a regimi violenti, ai crescenti disastri ambientali, hanno reso il mondo, il nostro mondo, sempre più invivibile. È una invivibilità che per i migranti si declina da una parte nella sempre maggiore inabitabilità dei propri paesi d'origine, da cui devono andarsene, e dall'altra in una sempre maggiore inospitalità di paesi di destinazione in cui non riescono a entrare. E questo si traduce subito in un paradosso. Ai migranti manca sempre più lo spazio fisico stesso del migrare. Il destino di chi migra è di restare fermo, bloccato, in uno di quei non luoghi istituzionalizzati che sono ad esempio i campi profugo e di detenzione di paesi terzi di transito, siano essi la Turchia, la Bosnia, la Libia. Lì viene annullata non solo la loro stessa condizione di migranti, forzati o economici che siano, perché appunto lì vengono costretti a una immobilità senza tempo, forse direi soprattutto senza futuro, ma la loro stessa dignità umana viene derubricata a scarto,